Radio 24 Reportage. A Bologna nasce FICO, per divertirsi con l'agroalimentare italiano, di Laura Bettini. FICO, che FICO, sognare di avere... Il tempo è giunto e FICO, ovvero Italy World, ha aperto i battenti a Bologna. Quando mi chiedono dov'è, dice il fondatore di Italy, Oscar Farinetti, rispondo che è in Europa, nella regione che si chiama Italia e precisamente nella sottoregione europea di nome Emilia-Romagna. Una spiegazione che è già una filosofia di vita e di business. C'è la critica all'Italia dei campanili, che non fa squadra, la visione di un mondo ampio e non europacentrico, con una vena di nazionalismo però, che affiora quando Farinetti si vanta di aver battuto i francesi, perché la cittadella gastronomica di Lione non sarà pronta che fra 2 anni e costerà un sacco di soldi pubblici, dice. Qui invece, ripete spesso, il pubblico ci ha messo solo degli edifici dismessi. I soldi sono arrivati dai privati. Allora, i francesi che sono nostri concittadini europei, e quindi li vogliamo molto bene, siamo in un'unica nazione, dai francesi dobbiamo imparare tantissimo, perché sono stati i più bravi al mondo a narrare il cibo, in assoluto, e infatti hanno un successo enorme. Pensa che in Cina ci sono 500 ipermercati Auchan, e quindi i cinesi pensano che, come la Coca-Cola è americana, pensano che il vino sia francese. Bravi! Dagli americani, dice ancora Farinetti, abbiamo copiato come si fanno i parchi divertimento, perché in quello sono maestri. Quindi che Italy World venga paragonato a una Disney World non lo disturba affatto. È una decisione che non solo non mi offende, ma mi riempie di orgoglio. Qui vogliamo rendere divertente conoscere la filiera agroalimentare, dal campo alla tavola. Qui ribaltiamo la logica degli chef in TV. Qui vogliamo rendere accattivante la materia prima, non il piatto. Il mio sogno è che un giorno ci sia uno in Italia che dice: sapete perché io faccio la differenziata? Non per senso di dovere, perché sono obbligato, la faccio perché poi lo racconto in giro e cucco di più. Quando arriveremo a questo, quando sarà considerato figo comportarsi bene, anzi fico, noi ce la faremo, perché poi noi italiani su quello che è fico siamo i numeri uno al mondo, no? A buttarci. Qui dobbiamo fare sta roba. Quindi qui tutte le robe che parlano di senso del dovere, coltivare bene la terra, pescare pesci già adulti, un nuovo rapporto con l'acqua, con la terra, con l'aria, avvengano per piacere. Lo faccio perché mi sento fico a farlo. L'energia di Farinetti è contagiosa, ma a sua volta anche lui è stato contagiato, perché l'idea di fico non è sbocciata in casa Italy, ma poco distante da dove è stato realizzato questo primo parco agroalimentare del mondo. Tra il CAB, che è il mercato ortofrutticolo di Bologna, e la facoltà di agraria dell'università. L'intuizione l'ha avuta Andrea Segre, professore, inventore di Last Minute Market, programma di contrasto allo spreco alimentare, e presidente del CAB dal 2012. Farinetti però è stato effettivamente veloce a cogliere l'opportunità, racconta Segre. Lui ci ha messo 32 secondi sostanzialmente a rispondere. Al secondo incontro ha detto: sì sì, mi interessa, però non si chiamerà Cittadella del Cibo ma si chiamerà FICO. Siamo rimasti tutti un po' sorpresi, però direi che ha funzionato molto. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano. Come scrive Max Bergami della Bologna Business School sul Sole 24 Ore, dopo l'ideazione e la costruzione dell'operazione si è entrati nella fase di definizione della governance basata su 3 pilastri: la cassaforte, fondo PAI gestito da Prelios SGR, la gestione, Italy World, NewCo fondata da Italy, Coop Alleanza e Coop Reno, guidata da Tiziana Primori, e la cultura, attribuita alla Fondazione FICO, costituita da alcune delle casse previdenziali private che hanno investito in FICO e collegata al mondo accademico. E aree multimediali all'interno delle quali vogliamo raccontare... Tutto questo, è chiaro, non si vede aggirandosi per FICO. 40 ristoranti, 40 fabbriche contadine per vedere come si fanno davvero le cose, mercati e botteghe, percorsi didattici, campi da gioco, centro congressi, più all'esterno, coltivazioni e allevamenti. Non si paga per entrare, ma si spera si paga all'uscita, dice Farinetti. Io qui mi immagino, spero, che ci arrivino australiani, svizzeri, tedeschi, messicani, brasiliani, che arrivano e si comprano un prosciutto intero di Parma, un una roba di grana padana intera piuttosto che parmigiano. Poi dopo le casse c'è l'ufficio postale, le poste italiane che li consegnano in tutto il mondo. Vicino l'ufficio dogana che li rimborsa l'IVA. Per Amadori, arcinoto gruppo italiano del settore avicolo, non è però solo una questione di business, ma forse ancor più di educazione e informazione al pubblico per sfatare qualche mito sul settore, ci dice la responsabile corporate communication Francesca Amadori. Attraverso anche i touch screen che abbiamo creato e anche un percorso in qualche modo didattico che il visitatore può fare, noi raccontiamo le eccellenze dell'azienda, della filiera integrata. Sfatate anche dei miti. Sì, questa per noi è un'opportunità proprio per raccontare, per esempio, com'è il sistema di allevamento in Italia. I polli sono per esempio tutti allevati a terra e mentre ancora sentiamo parlare di batterie. Parliamo di alimentazione degli animali, parliamo di una filiera integrata assolutamente tutta italiana, parliamo di industria che può garantire al consumatore sicurezza alimentare, parliamo di rintracciabilità del prodotto, parliamo di sostenibilità ambientale. Si cammina un bel po' a Fico Italy World ed è proprio sullo snodo tra i due padiglioni a L che lo compongono, accanto a un'arena per spettacoli e di fronte ai campi di beach volley, che è stato realizzato il laboratorio della storica pasticceria piemontese Balocco. L'abbiamo studiato apposta per l'occasione, ci dice Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato. È un impianto che abbiamo dovuto inventare da capo perché avevamo un fortissimo limite derivanti da uno spazio evidentemente non adeguato a quelle che è l'installazione della tecnologia industriale. Ma la sfida che ci è stata proposta ad Oscar Farinetti, ovvero di fare nell'ambito di Italy World un laboratorio di pasticceria da fare invidia al più bravo degli artigiani, ci ha stimolato a fare in modo che in questo minuscolo spazio si potessero installare le tecnologie che da sempre utilizziamo, perché siamo noi stessi provenienti da un'esperienza artigianale di pasticceria, alla quale però abbiamo applicato delle tecnologie industriali, ovvero robotica, automazione. Abbiamo provato a replicare questo modello in uno spazio in miniatura, con degli impianti studiati ad hoc, in modo tale da spiegare ai milioni di visitatori che attendiamo a Fico come si fa la pasticceria, come si fanno i panettoni, e lo facciamo in vetrina, quindi con grandissima attenzione e con tanta ambizione. C'è molto Piemonte a Fico, del resto le radici di Italy stanno proprio lì, ma ormai questo è un missile nazionale puntato verso l'estero, carico di prodotti d'ogni angolo d'Italia, compresi il ciauscolo e le olive all'ascolana di Food Brand Marche, associazione di produttori dell'agroalimentare marchigiano che ha deciso di unire le forze per promuovere da qui le sue specialità. Alberto Mazzoni ne è il direttore. Secondo me è una vetrina dove non si può mancare, un contatto con il consumatore finale, si parla che arrivano 6 milioni di persone, perciò noi siamo onorati di essere qui, di portare qui le marche, il progetto marche, il progetto dell'aggregazione, stare insieme, fare squadra e andare in posti che da soli non sarebbero mai potute andare in nostre piccole realtà. Siete più unici che rari come regione che riuscite a portare tutti insieme qua, lo sapete? Ci proviamo, attualmente questa associazione che è nata da poco, ha 7 soci fondatori ma 3.000 produttori, la stragrande maggioranza bio, e rappresentiamo tutti i prodotti certificati della nostra regione. È qui la festa! È qui la festa! L'obiettivo sono 6 milioni di visitatori all'anno, è una bella sfida per tutti ed anche per il gruppo ERA, Multiutility dei Servizi Ambientali di Bologna. Stefano Venier, l'amministratore delegato. Siccome il gruppo ERA è ovviamente impegnato sul tema dell'economia circolare dal punto di vista del riciclo, ma anche dal punto di vista della riduzione dei rifiuti e del riuso, ecco che nell'ambito delle iniziative del riuso che noi abbiamo promosso nel tempo ce n'è anche una che si chiama Cibo Amico, cioè il riutilizzo del cibo per altri usi anziché sprecarlo, ma ci impegneremo ad esempio a intercettare all'interno della struttura tutta la componente organica dei rifiuti che verranno generati per portarli in un nuovo impianto che stiamo costruendo vicino a Bologna per produrre il biometano, che potrà così dare un notevole contributo alla qualità dell'aria di questo territorio, di questo spazio di territorio, sostituendo con il biometano i combustibili tradizionali. C'è chi dice, ricorda malignamente un giornalista a Farinetti, che dopo l'entusiasmo iniziale i visitatori cominceranno a scemare e sarà un flop. Speriamo che sbaglino, una volta che dica, può essere tutto. C'è chi dice, ormai si dice così, vi ricordate cosa dicevano dell'Expo? Cosa dicevano quando hanno costruito la Tour Eiffel? cosa dicevano quando nel 1930 hanno fatto quella stazione centrale a Milano immensa. Il mondo si divide in due categorie, chi pensa in grande e fa e chi critica, ma magari anche chi critica ha la sua funzione, perché ci aiuta a sbagliare di meno. Eh sì, i viaggi una volta si facevano con il treno a vapore. Ma adesso il mondo è una palla che sta sulla tua mano. Ma come si fa a non essere ottimisti? L'ottimismo è il profumo della vita, era lo slogan della prima vita di Oscar Farinetti, quella di Unieuro, e lui non sembra averlo rinnegato in questa seconda. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.